si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, poi dice che l'Italia è un paese che non funziona, poi dice la casta, e invece no, sentite qua, Regione Puglia, ok ai tagli, ai costi della politica, 5 milioni di euro in meno all'anno per gli stipendi. La notizia è questa, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che ridimensiona gli stipendi di assessori e consiglieri regionali, ridimensionati anche i contributi ai gruppi politici, prevista l'abolizione dell'assegno di fine mandato e del vitalizio, questo lo hanno fatto anche altre regioni, e poi cura dimagrante anche sul numero dei consiglieri regionali che dalla prossima legislatura scendono da 70 a 50, stimati 5 milioni di euro l'anno di risparmi. E poi dice che l'Italia è un paese che non funziona. Beh, queste sono buone notizie, non c'è dubbio. Dalla Puglia, chissà se questa notizia fosse emersa prima del voto delle primarie, magari Vendola si sarebbe avvantaggiato visto il clima che c'è in questo periodo. I nostri contatti, la pagina Facebook si può fare, trattino Radio 24, e poi siamo anche su Twitter, si può fare 24, io Ale Maurizi. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Oggi partiamo da questa notizia qua: in Toscana la terra per i giovani agricoltori la dà la Regione Toscana, che aprirà dei bandi per le terre del demanio, terre pubbliche abbandonate che verranno date, adesso capiremo come. Però noi ci domandiamo e vi domandiamo: c'è davvero questa voglia di tornare all'agricoltura da parte dei giovani, e in Toscana in particolare? 800 24 00 24. Adesso un altro paio di segnalazioni prima di cominciare. Due notiziole piccole piccole davvero. Allora, la prima viene da Milano, al via la prima edizione delle Energia D. Di cosa si tratta? Una sfida a colpi di pedale per produrre il maggior numero di kilowattora possibile da novembre, quindi è appena iniziata, fino a marzo dell'anno prossimo, alla quale parteciperanno 5.000 ragazzi di 18 istituti scolastici della città. In pratica è un'iniziativa organizzata dall'associazione Socialize, patrocinata dal comune e sostenuta dai consigli di zona. I ragazzi, non so come, dove, perché, ce lo spiegherete magari voi ascoltatori, pedaleranno nelle loro scuole producendo energia, e chi vince, vince un premio. E questa è un'iniziativa per sensibilizzare sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili. Altra notizia curiosa viene da Genova, e il protagonista questa volta è l'Arci Cittadino, l'associazione, sapete, ricreativa diffusa un po' in tutta Italia. Apre l'ospedale dei pupazzi in coda per una puntura al peluche. In pratica è nato il primo ambulatorio che risana i giocattoli più amati dai bambini. È l'iniziativa che vuole insegnare ai bambini ad occuparsi di qualcosa che sta loro a cuore senza sciupare nulla. In pratica si può andare nelle sedi Arci di Genova e con i giocattoli rotti c'è qualcuno che li aiuterà, i bambini, ad rattoppare il peluche e il giocattolo. È un'iniziativa, insomma, per favorire così il risparmio e la consapevolezza anche nei più piccoli. 800 24 00 24, tra poco con la terra promessa in Toscana. La terra promessa, come cantava Bruce Springsteen, forse esiste ancora. Esiste sicuramente in Toscana, dove l'assessore regionale all'agricoltura ha promesso terre del demanio ai giovani agricoltori. Adesso sentiremo come e perché. Intanto lo salutiamo, l'assessore Gianni Salvadori, buongiorno. Buongiorno a tutti. Avete fatto un bel guaio a fare questa promessa. Adesso vi siete impicciati in una faccenda, eh? È verissimo, guardi. Abbiamo fatto proprio un quel guaio, ma penso invece trasformeremo, fra virgolette, un guaio, un lancio, in un'opportunità vera. È volontà della Regione, abbiamo presentato già la proposta di legge in Consiglio regionale, mi auguro che venga approvata prima della fine dell'anno, che permette di utilizzare le terre di nostra proprietà in funzione appunto dei giovani, ma non solo dei giovani, anche di persone disoccupate, indipendentemente dall'età. Insomma. Sì, ma cosa prevede un po' il meccanismo che avete in mente? Un meccanismo prevede più cose. Intanto questa cosa qui, con l'aggiunta di essere disponibili a poter accollarci la disponibilità di terre, anche di privati, che non coltivano più e che vogliono mettere in circuito ed essere ricoltivate. In Toscana i nostri ascoltatori devono sapere che in 10 anni abbiamo perso più di 100.000 ettari di terreno coltivato. Sì. Questo ci può permettere da un lato di ristimolare con grande forza le tematiche ambientali, la biodiversità, e contemporaneamente affrontare il tema del dissesto idrogeologico che tanto penalizza. Certo. L'abbiamo visto anche questa settimana, cosa è successo con quelle piogge che appena arrivano allagano territori che probabilmente non sono più adatti, non sono manutenuti a sufficienza. Non sono lavorati, perché se li lavoriamo i terreni alla assorbono. Fine assorbono l'acqua, certo, e più danno un po' di reddito, e mi sembra anche sufficiente per poter vivere. Oltre, assessore, oltre a allargare questa banca della terra, avete detto, quindi territori del terre del comune, del demanio, più eventuali terre dei privati che voi vi accollate di rimettere in circolo, ma il meccanismo per chi vorrà aderire a questa cosa, quale sarà? Un comodato d'uso gratuito, una vendita a basso costo, un affitto? Cosa pensate? Non abbiamo intenzione di vendere, abbiamo intenzione di affittare, certo per periodi lunghi, tramite bandi pubblici, con idea di che cosa andarci a piani agronomici da previsti. Un po' come si fa con, mi scusi se interrompo, come si fa per le spiagge, cioè canoni per periodi lunghi che possono prevedere quindi anche investimenti. Certo, perché altrimenti in agricoltura lei pensi che minimo il ritorno di un investimento è ventennale, quindi non possiamo pensare di fare cose diverse da un punto di vista tempistico. Vogliamo costruire, a differenza delle spiagge, un affitto equo, concordato, secondo criteri trasparenti. Avete un'idea di questa equità, cosa potrebbe girare attorno? Siccome la Toscana, come lei sa, è grande, quindi abbiamo anche condizioni molto differenziate. Una cosa è parlare di un terreno destinato a far viticoltura, una cosa è il terreno destinato a far cerealicoltura, per cui dovremo avere un atteggiamento e una posizione molto concreta e molto legata alla realtà. Il tutto sarà valutato da esperti. Il tutto non costerà un euro all'ente pubblico. Ho sentito prima parlare della Puglia, l'abbiamo fatto anche noi, ma in più aggiungo, su questo non sarà fra virgolette un carrozzone, perché saranno impegnati su questo solo dipendenti già della regione, quindi con costi esistenti. Non è previsto. Non apriamo nuove commissioni. Non apriamo nulla. Consulenze. Benissimo. No, assessore, resti un attimo con noi. Facciamo una pausa per il traffico. Poi ci domandiamo insieme se ci sono anche nelle vostre aspettative giovani agricoltori, aspiranti agricoltori che hanno davvero voglia di ritornare a questo lavoro, che è un lavoro faticoso, lo sappiamo. Lei ha parlato di investimenti che rientrano in 20 anni, quindi ci vuole anche fiducia nel tempo. E allora questo domandiamo anche agli ascoltatori. 800 24 00 24. Eccoci qua di nuovo in diretta con l'assessore toscano all'agricoltura Gianni Salvadori. Avete censito i terreni che sono in qualche modo andati perduti, abbandonati all'agricoltura, però avete anche censito o provato a capire quanti possono essere questi aspiranti. Ci sono questi giovani agricoltori che davvero vogliono tornare alla terra? Ma guardi, noi abbiamo fatto un bando per costruire rapporti con i giovani e l'investimento dei giovani, e si sono presentati in 674. Di questi, pensando di finanziarli tutti, poi alla fine un centinaio hanno dovuto lasciare l'impegno perché non hanno trovato il terreno su cui esercitare la loro attività e il loro progetto. Quindi presumo che ci possano essere. Lei consideri che mentre nel passato nelle facoltà d'agraria di Firenze si iscrivevano massimo 300 ragazzi, quest'anno sono in tutte e due le facoltà quasi 500. Quindi io penso che probabilmente per ragioni di crisi, probabilmente per ragioni culturali, un ritorno alla voglia della tutelare l'ambiente, credo vi sia grande attenzione da parte del mondo giovanile. Poi aggiungo, io sto trovando anche persone che hanno perso il lavoro, che hanno intorno ai 50 anni e che vedono nell'agricoltura un possibile sbocco, e quindi dobbiamo anche per essi essere molto attenti. Benissimo, e lei diceva forse entro la fine dell'anno potremmo, anzi auspicava, ma ci guardi, può dare un messaggio di, così, di speranza, di fiducia entro la fine dell'anno? Sì, io il consiglio è previsto per il 18-19 di dicembre, e questa è una legge che mi auguro vada in quel periodo, perché è collegata alla finanziaria regionale. Nel caso in cui si decida che c'è bisogno di un altro po' di dibattito, massimo nella prima consiglio utile di gennaio, quindi sono molto fiducioso. Sì. Molto fiducioso. No, il dibattito, per l'amor del cielo, il consiglio regionale è la sede del dibattito, però insomma mi sembra un'iniziativa così semplice e lineare che tutto sommato sicuramente qualche approfondimento lo richiederà, ma approfondimenti forse tecnici per capire. A proposito, assessore, lei che è assessore all'agricoltura della regione, quali sono i territori che avete in mente? C'è una banca già esistente dei territori del demanio che potrebbero andare in questi bandi, comuni particolari, zone particolari della Toscana? Ma guardi, noi abbiamo la proprietà di 110.000 ettari in Toscana. Sono distribuiti in tutte le province della Toscana, quindi, come dire, c'è sicuramente qualche realtà che ne ha di più, qualche di meno, ma sostanzialmente non c'è un territorio, una provincia della Toscana scoperta da questo tipo di quale presenza. Percentuale approssimativamente rispetto a questi 110.000 ettari di territorio potrebbe andare in questi bandi? Cioè potrebbe tutta, aggiungendo anche quelle realtà che sono presenti in aziende agricole, sì, di nostra proprietà, che rispetto alle quali faremo piani agronomici e anche lì andremo avanti. Per dire, sulla realtà di Alberese abbiamo già messo in bando la gestione degli agriturismi che sono presenti dentro la tenuta, e quindi stiamo già cominciando su questa strada, per non trovarci poi scoperti tra qualche mese, quando la cosa partirà in maniera definitiva. E allora vi verremo a trovare quando la cosa partirà in maniera definitiva, perché ci piace molto questa iniziativa. Grazie all'assessore. Grazie, la ringrazio dell'attenzione. Arrivederci, a presto. Arrivederci, a presto. Lasciamo la Toscana e veniamo in Lombardia, andiamo a Vimercate. Questa volta però la storia è un po' meno allegra. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Questa mitica canzone dei Beatles, la seconda forse canzone singola più venduta nel mondo, non possono comprarmi il cuore letteralmente, perché per introdurre il prossimo argomento, che è questo: quando la fabbrica ha un cuore all'Alcatel, stipendi autoridotti per aiutare i 150 cassa integrati. Dicevamo una storia un po' meno allegra perché tutto parte da una crisi aziendale, però anche qua c'è una buona notizia di solidarietà forte all'interno di questa fabbrica, la Alcatel. Ne parliamo con la nostra prossima ospite, che è Adriana Geppert. Buongiorno. Buongiorno. Dipendente della Alcatel e rappresentante della RSU, cioè della rappresentanza sindacale. Poi ci spiegherà tra un attimo questa bella iniziativa di solidarietà, però mi sembra giusto anche partire dalle condizioni della fabbrica, un'importante multinazionale della telecomunicazioni. C'è una crisi. Sì, c'è una crisi. Ecco, diciamo, partiamo appunto dall'inizio, nel senso che a gennaio di quest'anno l'azienda, la multinazionale, ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevedeva un taglio occupazionale qui in Italia di 490 addetti su 2000. In modo particolare, la cosa che è veramente grave è che questa riorganizzazione era finalizzata alla dismissione delle attività di ricerca e sviluppo della multinazionale nel nostro paese. E questo naturalmente è qualcosa che preoccupa. Preoccupa tantissimo, perché la prima preoccupazione dei lavoratori, dei colleghi, dei ricercatori di Alcatel Lucent, sì, che sono in Italia, è proprio quello di mantenere posto di lavoro. Tant'è che noi abbiamo iniziato una veramente una battaglia contro questa decisione della multinazionale di dismettere le attività di ricerca e sviluppo nel nostro paese, in quanto il prodotto che noi facciamo non è più considerato core business per la multinazionale. Che cos'è questo prodotto, per essere precisi? Noi facciamo apparati ottici di trasmissione sia su fibra ottica che su etere, quindi attraverso i ponti radio, e facciamo anche apparati ottici fotonici di nuova generazione a 100, 400 fino a un terabit di trasmissione. Vabbè, proprio non ci ha capito niente nessuno, però non è colpa sua, è che siamo noi che siamo ignoranti, però era giusto dirlo. Sì, no, sono gli apparati per la banda larga, la famosa banda larga, ecco, questo di cui però se ne è già un concetto che ci è più familiare. Certo. Quindi abbiamo chiarito le condizioni di partenza, poi però arriva la vostra decisione, tra l'altro condivisa anche dall'azienda. C'è un clima particolare, vi voglio subito chiedere da voi, perché di crisi aziendale purtroppo se ne sente parlare in molti casi. La vostra, tra l'altro, è stata una di quelle di cui forse a livello nazionale si è parlato di meno, si è parlato dell'Alcoa e di altre realtà. Però da voi come mai è nata questa iniziativa? Stringiamoci tutti attorno e evitiamo che chi è in cassa integrazione rimanga sostanzialmente senza stipendio. Come ve lo spiegate questa cosa? Noi ce lo spieghiamo perché, appunto, dicevo, abbiamo messo in campo per 5 mesi tantissime iniziative, abbiamo raggiunto un obiettivo, cioè quello di far cambiare il piano di dismissione della multinazionale nel nostro paese. Abbiamo fatto un accordo al Ministero dello Sviluppo Economico che prevede l'inserimento di nuove attività nella strategia di Alcatel-Lucent, però purtroppo questo piano di sviluppo doveva essere accompagnato da un piano di riduzione dei costi e quindi da un piano di cassa integrazione straordinaria che coinvolge 245 dipendenti di Alcatel. Semplificando, avete avuto la possibilità di mettere in piedi questo accordo che dà una prospettiva all'azienda, d'altra parte c'era bisogno di fare dei risparmi e allora ecco che è venuto più semplice forse fare questo gesto di solidarietà, che è stato facile coinvolgere i lavoratori, tutti hanno aderito. Quanto si deve donare per aiutare allora, le casse integrate? Praticamente noi siamo circa 1600 dipendenti in tutto il gruppo, di cui togliamo diciamo effettivi 1500, e abbiamo avuto un'adesione nel primo mese di sottoscrizione al fondo di solidarietà per sostenere economicamente i colleghi in cassa integrazione di 864 dipendenti. Quindi la metà circa, anche la un metà po' di circa, più. Però su Vimercate, che è anche la sede più impattata della cassa integrazione, su 1100 dipendenti, oltre 700 hanno sottoscritto il modulo per l'adesione al fondo di solidarietà. E gli altri, lei pensa che siano persone che magari non ce la fanno arrivare alla fine del mese senza quei 50 euro? Oppure... Guardi, purtroppo devo dire che ci sono delle condizioni economiche delle famiglie e anche di colleghi veramente disastrate, perché purtroppo la perdita di posto di lavoro da parte o della moglie o del marito, della compagna o del compagno è diffusissima, per cui tanti lavoratori... Ci sono anche situazioni specifiche che non si possono, come dire, non si può entrare nel merito, e comunque mi sembra un alto livello di adesione, è davvero una notizia che rincuora, però mi sembra, e poi vi lascerei, magari ci risentiremo più avanti quando avrete altre buone notizie dello sblocco di questa avvertenza, insomma, che il senso di tutto questo è: se il ministro ci mette del suo, si riesce a fare un accordo con l'azienda, allora possono scattare anche misure di solidarietà interna, sacrifici, però in una prospettiva comunque positiva. Certo, di rilancio e di sviluppo delle attività. Ovviamente noi speriamo che tutti questi nostri colleghi in cassa integrazione hanno innanzitutto un sostegno economico immediato, perché purtroppo se non ci sono i soldi non si mangia, come si suol dire. E hanno anche una prospettiva però. E hanno anche una prospettiva per il futuro. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori, ricordiamo i contatti, si può fare trattino Radio 24 per cercarci su Facebook, si può fare 24 invece anche su Twitter, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Oggi siamo partiti dalla terra promessa in Toscana, presto ci sarà un bando della regione per dare terre ai giovani agricoltori che le richiedono, terre del demanio che altrimenti sarebbero abbandonate. Però noi ci chiediamo, c'è davvero questo voglia di ritornare al lavoro nei campi, che è anche un lavoro tra l'altro piuttosto impegnativo? 800 24 00 24, sentiamo prima di tutto Thomas che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io stavo ascoltando e sono veramente molto interessato all'iniziativa che è stata sta per essere attuata. Mm-hmm. E devo dire che io sono di Roma e già la Regione Lazio tempo fa prometteva l'affidamento di terre demaniali. Altra regione dove l'agricoltura, diciamo, e le terre a vocazione agricola sono molto presenti, sì? Sì, sì, sì, sì. E devo dire che io mi sono diplomato come perito agrario, sì, ormai qualche anno fa, 23 anni, nel 2009. E però diciamo, scommetto che la terra lei non l'ha trovata. No, no, no, anche perché insomma quelle che ci sono sono un po' così care e di solito dovrebbero essere acquistate, ma avere una concessione dal demanio anche con un affitto, sì, non troppo esoso è un'ottima iniziativa e può rilanciare comunque soprattutto le economie locali. Che insomma poi lei la farebbe domanda se ci fosse un bando del genere nella sua regione? Io subito la farei veramente e ho un progetto in corso, sì, per quanto riguarda l'elicicoltura, quindi l'allevamento di chiocciole da gastronomia. Va bene, e magari la prossima sabato può chiamare anche il Gastronauta, che è il programma che ci precede e che parla anche di queste cose. Thomas, che dire, forse una domanda che ci siamo dimenticati di fare all'assessore è questa: fate tanta pubblicità al bando, perché è vero che spesso iniziative come queste, lodevoli e positive, poi magari vengono scritte in una breve, in quarta pagina, non se ne accorge nessuno e magari il bando va vuoto perché non è stata fatta pubblicità a sufficienza, magari per paura che ci fossero troppe domande. No, invece fate tanta pubblicità perché è meglio che ci siano più domande e così poi la cosa va a buon fine. Gianfranco da Firenze 800240024, buongiorno. Lei chiama proprio dalla regione incriminata, Terra Promessa. Allora, l'idea è molto interessante, tuttavia il problema è questo, cioè molti giovani agricoltori vorrebbero approcciarsi al mondo dell'agricoltura, il problema è che spesso non hanno le conoscenze adatte per diventare veri e propri agricoltori. Noi personalmente attraverso un'azienda agricola stiamo lavorando a una fondazione di due signore che fanno l'agricoltore da circa 50 anni e che vogliono fare una sorta di passaggio del testimone, quindi insegnare ai giovani agricoltori quali sono tutte le problematiche. Come direbbe Bersani, dare ascolto all'esperienza. Esatto, cioè queste signore non hanno figli, quindi sì, stanno mettendo in su insieme a noi, che è un progetto che si chiama Genuino, con la J, questa fondazione che permette appunto questa cosa. Secondo me è un'idea molto interessante che potrebbe dare un'opportunità ai giovani agricoltori di non trovarsi. Allora, visto che voi avete una mini gruppo di pressione, una mini lobby, questa fondazione che ci state lavorando, state addosso alla Regione Toscana perché evitiamo che succeda come è successo a Thomas, che nella Regione Lazio aveva sentito parlare di questi bandi, poi però non se n'è fatto nulla. Grazie Gianfranco da Firenze, 800 24 00 24. Garbage, in una celebre canzone, perché con un nome così loro sono senz'altro stati tra i primi ad avere capito che i rifiuti sono senza dubbio il nuovo oro del XXI secolo. Leggiamo dalla cronaca locale di Repubblica delle Marche: il miracolo della scuola dei sogni, costruita con i soldi della discarica, materiali ecocompatibili, luci con il fotovoltaico, classi high tech alle elementari Martin Luther King di Maiolati Spontini. L'istituto pubblico in provincia d'Ancona, finanziato con i ricavi dello stoccaggio dei rifiuti dei paesi vicini. Avete sentito bene, qua dovrebbe partire una ola, perché costruire una scuola di questo livello con i soldi che vengono dai rifiuti che gli altri normalmente scartano e invece qui vengono valorizzati è pazzesco. Salutiamo il sindaco Giancarlo Carbini. Buongiorno. Sindaco di Maiolati Spontini, lui è sindaco part-time da alcuni anni e poi parleremo anche del comune virtuoso. Avete estinto qualche giorno fa l'ultimo mutuo. Siete un comune. Esatto, siamo un comune a debiti zero. Debiti zero, fantastico. Questa scuola, che è anche una bellissima notizia, l'avete inaugurata qualche settimana fa, proprio in questo modo, Sindaco. I rifiuti davvero per voi sono una miniera d'oro? Sì, abbiamo saputo trasformare quello che per altri è stato un problema, se non addirittura un dramma, in una ricchezza. E non si tratta solo di una scuola, ma di un progetto integrato che abbiamo chiamato MIX, Maiorati Spontini Istruzione, Cultura e Sport, che prevede il polo scolastico, una splendida biblioteca inaugurata nel 2007, primo dicembre 2007, in piena emergenza dei rifiuti in altre regioni d'Italia, sì. In mezzo a del verde, un grosso parco attrezzato e uno snodo di piste ciclabili. Cioè, immagino che chi vive lì insomma, si sentirà un po' come a Bolzano, no? O come in Svizzera. Sì, abbiamo fatto una scelta forte di investire per il futuro, investire sulle giovani generazioni. Ad esempio, abbiamo scelto di non abbattere, se non nella giusta proporzione, le tasse dell'ente locale, ma di investire sul futuro, quindi di proiettarci oltre. E anche per questo abbiamo estinto i mutui per liberare le risorse sul bilancio, visto che è tagliato tremendamente dalle finanziarie. Senta, lei è un dirigente informatico sì. nella vita, diciamo, professionale. Quanto il suo approccio anche tecnico-scientifico l'ha aiutata in questi anni, oppure sono scelte e politiche? Tra l'altro un comune premiato anche dal Sole 24 Ore tra i piccoli comuni come tra i più virtuosi in passato. Cioè, quello che le domando è la politica che prende queste decisioni, oppure si tratta anche di soluzioni che hanno un ampio margine tecnico, cioè soluzioni studiate proprio per funzionare? È un giusto mix. Noi modestamente vogliamo essere l'espressione della bella politica con la P maiuscola, ma anche di chi non fa la politica per mestiere. Io sono stato ad esempio soprannominato il sindaco di notte, perché continuo a lavorare come dirigente informatico e ho predisposto che tutte le riunioni di giunta, di maggioranza, di consiglio, di commissione si facciano di sera, svolgono dopo le 21. Accidenti. E per fortuna siete un comune piccolo e quindi immagino che le riunioni non dureranno troppo tempo e non siano troppo frequenti, perché sennò uno perderebbe il sonno. Le voglio far parlare anche di un altro aspetto, perché qualcuno potrebbe pensare, prendono i rifiuti, importano i rifiuti e quindi abbrutiscono anche il territorio, l'ambiente, mettono a rischio la salute. Sappiamo che questo in varie zone purtroppo d'Italia accade. Ci fanno i soldi, costruiscono le scuole, si fanno belli, però intanto i rifiuti che fine fanno? Lei mi diceva che su questo voi siete severissimi. Siamo assolutamente severi. La discarica è gestita da una società intero capitale pubblico, la Sogenus S.p.A. e è una delle discariche tra i più certificate d'Italia. Cioè voi se c'è un livello 10, che ne so, di ammissibilità, fate 7? Noi facciamo 7. Se quel livello deve essere controllato due volte l'anno, noi lo controlliamo con maggior frequenza. E abbiamo adottato anche, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e Facoltà di Agraria, un termometro assoluto che è stato riconosciuto in maniera molto favorevole dalla cittadinanza. Ah, questa idea è bellissima. Gli alveari dentro la discarica per far vedere alla gente, far capire in modo semplice cosa? E le api che vivono in questi alveari sono risultate e sono continuamente monitorate per questo in miglior stato di salute che in quelle delle altre campagne marchigiane, addirittura delle oasi verdi vicine alle nostre. È stata un'analisi scientifica, dibattuta, controllata, addirittura abbiamo dovuto rispondere a chi ci diceva sì. che le api catturano il miele lontano dalla discarica, quindi la dimostrazione non c'era. Il professore ci ha spiegato che le api hanno un corpo peloso e quindi anche se catturano il miele, il nettare fuori dalla discarica, attraversano tutta la discarica, quindi se ci fosse qualcosa, certo, loro lo assorbirebbero. E questa è un'idea io trovo veramente originale e geniale insieme, perché davvero fa capire a tutti che non è questione di limiti, di numeri incomprensibili, ma così si capisce che la discarica è effettivamente pulita. Quindi questo oro che voi, questi rifiuti che trasformate in oro e poi investite nel comune, non portano danni collaterali alla salute e all'ambiente. Io lo ringrazio, il sindaco Giancarlo Carbini di Maiorati Spontini. Sicuramente alla prossima iniziativa ci risentiremo, perché insomma una ne fa e 100 ne pensa. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. A presto, grazie. E adesso facciamo un piccolo break prima del traffico con Marco Govoni di bachecapolitica.it, il sito, abbiamo detto, che inchioda i politici e i partiti alle loro promessa, l'abbiamo spiegato qualche settimana fa. Ciao Marco. Ciao Alessio, buongiorno. Perché domani ci sono, c'è il ballottaggio delle primarie, voi avete fatto un sondaggio che ha una piccola sorpresa rispetto alle previsioni, Marco. Sì, stiamo facendo un piccolo sondaggio appunto per cercare di capire un po' come qual è l'umore su internet appunto sulle primarie. La piccola sorpresa è che in questo momento vediamo Matteo Renzi con un piccolo vantaggio, quindi al 51% di preferenze, e cose che non era così ieri. Diciamo che è un testa a testa che sarà molto appassionante. Si può ancora votare andando su bachecapolitica.it. Subito dopo il sondaggio trovate quella che è l'attività normale del sito, cioè le promesse dei politici. Scatta il contatore di tempo e si comincia a vedere quanto tempo passa prima che le promesse vengano mantenute oppure smentite dai fatti, che poi è quello che purtroppo, ahimè, capita. Vedo che ci sono Renzi e Bersani in primo piano, qualche promessa sì. Che avete messo su? Sì, diciamo che la settimana è un po' ovviamente monopolizzata da Renzi e Bersani, giustamente perché vogliamo dare visibilità a quelli che sono i loro programmi, quindi abbiamo inserito le promesse contenute nei loro programmi e vedremo poi chi dei due vincerà dovrà mantenerle, un motivo sì, in più per mantenerle. Perché insomma la corsa alle primarie è bella, entusiasmante, insomma. Ora non ci allarghiamo, però può essere anche entusiasmante per chi segue la politica. Si fanno tante promesse come in campagna elettorale e sarà interessante poi vedere chi dei due vincerà, se poi diventerà Presidente del Consiglio, se si ricorderà di quello che ha promesso in questa corsa che finisce domani. Quindi Renzi in leggero vantaggio. Questi sono i lettori di bachecapolitica.it, quindi quelli che come li definiresti i vostri lettori? Più che seguono la politica, che sono sicuramente appassionati ai social network, ma anche sì, assolutamente confinate un po' con l'antipolitica, no? Perché questa idea di far le promesse sì, diciamo, sono sicuramente appassionati di social network, anche di politica, e soprattutto sono persone che hanno voglia di cambiare. Perché io l'ho detto anche l'altra volta e lo ricorderemo ancora in futuro parlando con voi di bachecapolitica.it, ci sono paesi anche in Europa dove ci sono addirittura degli istituti, dei centri di ricerca che valutano l'attendibilità delle promesse dei politici, quindi non è una cosa, cioè è un gioco, è un social network, però al fondo c'è anche una questione vera, troppe promesse certo. Al vento. Grazie Marco Govoni, bachecapolitica.it, andate, votate il sondaggio e poi vediamo se avrete indovinato oppure no. Riprendiamo il numero verde 800 24 00 24, è l'ultima telefonata forse per oggi, però per chi non è riuscito a intervenire c'è anche la segreteria telefonica durante la settimana, 828 12 12 per lasciare i vostri messaggi, le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto, le chiamiamo così. Oggi al numero verde sulla questione, credo, della terra promessa in Toscana ci chiama Luigi da Firenze, buongiorno. Buongiorno e complimenti veramente, non sono l'unico che glielo dica su questa trasmissione. Sul discorso grazie. Delle terre, sì. Io sto seguendo in modo appassionato anche quello che ha messo in moto la regione toscana. Sì. Mi creda, ci sono tante di quelle richieste che la regione non riesce a soddisfare tutti, e questo è un buon segno sì. Per quanto riguarda la coltivazione, perché stiamo vedendo tutto il discorso idrogeologico, è anche un discorso di coltivare la terra e far sì che se la terra non è incolta, allora l'acqua scivola, certo. Ci sono tanti motivi, però la cosa interessante è che sì. Se lei va a vedere anche i comuni della Toscana, ci sono i cosiddetti orti sociali. Ecco, ma lei perché ha chiamato? Perché io chiedevo, c'è questa sì. Voglia? Lei dice sì, c'è. Il mio caso è che io ho delle persone che sì. Lavorano con me, dove hanno dei proprietari terrieri che non hanno la possibilità di coltivare il terreno. Il mm-hmm. proprietario terriero, come a me, dà tipo un pezzettino di terra, io mi coltivo il mio orto. Sì. E quindi faccio, e come me, che ho 35 anni, ce ne sono tanti che hanno fanno questa prassi, che si ritorna di nuovo all'antico. Cioè si dà, cosa date, la decima al proprietario? Cosa date? Date una parte del raccolto, un affitto, cosa date? No, gratuitamente. Perché teniamo il terreno pulito, perché sennò le erbacce, siamo in un paese. E come quindi... fate a convincere i proprietari di questa cosa qua? Perché immagino poi la diffidenza, perché un conto è parlarne in teoria, un conto è dire territori del comune, un conto poi ai privati. Sì. No, l'importante è non costruire tipo capanne, l'importante è utilizzare utilizzarlo per terreno agricolo, loro non è che te lo danno a vita, te lo danno per quello che è, quindi siccome non hanno bisogno. Insomma, con questo sistema è riuscito a sistemare quante persone, in quanti terreni? Senta, io abito in un condominio e la frutta e la verdura che coltivo nel mio piccolo lo do alle persone che stanno al primo, secondo, terzo piano. Ma le chiedevo, quindi appunto, quelli nel suo condominio sono tutti sistemati. No, ma dicevo, quante persone hanno con questo sistema, che conosca lei, un terreno da coltivare? Io ho amici, quindi la meschiera di amici, che sarebbe una decina, fanno... Va bene, questo dove avviene esattamente? Siamo a Firenze. Città. Firenze città, sì. Grazie Luigi, e lei ci conferma quindi che lo spazio per tutto questo c'è, la voglia da parte delle persone e dei giovani o anche meno giovani di coltivare piccoli appezzamenti di terra, quindi risponderanno sicuramente al bando della Regione Toscana. Beh, quasi l'ora di pranzo, quindi insomma l'associazione viene naturale. Questa è la celebre canzone del musical di Johnny Dorelli, che usiamo ogni volta che si entra un po' in questi argomenti. La prossima storia viene da Milano, è una storia piccola, se volete, locale, ma può essere e deve essere esportata. L'associazione Cena dell'Amicizia da tempo fa delle iniziative per chi ha bisogno, tra cui per esempio la rete dei ristoranti del Buono che Avanza. Ti danno la schiscetta e ti porti a casa il cibo avanzato che non deve essere buttato. Un'iniziativa antispreco. Fanno anche altre cose. Io saluto Nicoletta Massucci, che è avvocato nella vita e fa parte di questa associazione. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie. L'ultima iniziativa, Nicoletta, parte oggi e va avanti fino al 15 dicembre. Ce la vuole raccontare? Certamente, l'iniziativa che abbiamo chiamato Pane Coperto ed è un progetto promosso appunto da Cena dell'Amicizia, che è un'associazione che si occupa di gravi emarginati e senza dimora, dei centri di accoglienza appunto per risolvere problemi per le persone in difficoltà, persone senza dimora. Questo progetto, in accordo con EPAM e con ristoranti milanesi e anche di fuori Milano che hanno aderito all'iniziativa, si propone di aiutare le persone in condizioni di povertà che si ritrovano a dormire senza tetto per superare l'emergenza freddo. Quindi fare una raccolta particolare di somme per poter aiutare queste persone in questo problema. I ristoranti che aderiscono al progetto scelgono quindi di destinare alle persone senza dimora che sono accolte da Cena dell'Amicizia una somma corrispondente al coperto che i clienti sono tenuti a versare nel conto che viene pagato alla fine di ogni pasto. Mm-hmm. Quindi nel periodo dal 1 di dicembre, quindi oggi, al 15 di dicembre, i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa verseranno a Cena dell'Amicizia il corrispondente del coperto che viene versato dai propri clienti. Noi abbiamo fornito ai ristoranti che hanno aderito degli espositori, dei volantini che appunto illustrano l'iniziativa, un salvadanaio che viene tenuto presso questi ristoranti e quindi potranno essere raccolte queste somme. Quindi, e per chi volesse, manifesta questa sua solidarietà, e il cliente quindi che pranza o cena presso questi ristoranti sa a loro a propria volta collabora a questa, a questa iniziativa. E per chi volesse orientare la propria scelta per una cena di qui ai prossimi 15 giorni, basta andare su internet e digitare sul sito www.cenadellamicizia.it, c'è il sito appunto, il link legato al progetto che appunto si chiama Pane Coperto, e quindi ci sono tutti i ristoranti, ce ne sono diversi su Milano e anche fuori Milano che partecipano all'iniziativa, e quindi invitiamo tutti ad un pranzo, una cena solidali, che sono senz'altro una buona opportunità. Che sono tra l'altro una cena come un'altra, non cambia nulla, anzi sono ristoranti tra l'altro, devo dire, anche ad un certo livello a Milano, però si sa che si dà una mano, tra l'altro un'iniziativa, ripeto, locale di Milano, però cari ascoltatori, non solo perché quest'anno non abbiamo anche ristoranti fuori Milano, in Lombardia, da Cernusco, in Brescia, da Roma, ad Albino, insomma ci sono altri ristoranti. Mentre la rete Il Buono che Avanza stanza di cui abbiamo parlato anche l'altra volta è addirittura anche fuori dalla Lombardia e c'è un po' in tutta Italia, quindi ascoltatori copiate, perché le buone idee vanno copiate senza indugi, cioè non bisogna avere paura, bisogna espandere a più non posso. Poi se volete invece ristoratori aderire, chiamate l'associazione di cui vi abbiamo parlato, e è molto semplice, insomma si entra in contatto con un mondo di solidarietà che costa veramente poco farlo. Grazie intanto a Nicoletta Massucci per essere stata nuovamente con noi. Dal 1 al 15 dicembre a Milano si può cenare nei ristoranti dell'amicizia. Noi ci fermiamo qua anche per oggi. Io ringrazio Franco Piantanelli in redazione, Giorgio De Luca oggi in assistenza in diretta, e poi Paolo Corleone in regia. Anche da me, Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata. Ci risentiamo domani a mezzogiorno su Radio 24. Si può fare. Sì.